Alfred, non torno per cena. Sai, vecchio Jack, siamo amici da tanto, e neppure io sono proprio un gran santo. Ne ho fatte tante che ho l'anima nera, e poi sono stanco, non è una gran sera. Lo so molto bene che la legge è un gioco, che è un'invenzione, un trucco da poco. Però ci son cose serie importanti che non puoi ignorare, perché son pesanti. Ci son sentimenti che suonano banali, ma pulsano in fondo con scatti vitali. Niente è sicuro e questo è certo, ma tutti vogliamo dormire al coperto. Ognuno cerca di aver degli amici, ed alcuni cercano d'essere felici. Per quanto nessuno sappia che sia, l'amor della vita è sempre regia. Per questo metto il mantello la sera, oscura figura nella notte nera. So che là fuori non ci sono ideali, soltanto bruti istinti animali. Per questo metto il mantello la sera, brilla un segnale nella notte nera. Per questo metto il mantello la sera, brilla un segnale nella notte nera. Per me questo qui è il senso della vita, creare ideali, giocare la partita. Tutto è relativo, niente è sensato, ma non voglio esserne paralizzato. Sarà ripartendo dalle emozioni che giocherò alle costruzioni. Un'ideuzza che appena si scorge, ma piano piano l'ideale risorge. Per questo metto il mantello la sera, oscura figura nella notte nera. So che là fuori non ci sono ideali, soltanto bruti istinti animali. Per questo metto il mantello la sera, rinasce un'idea nella notte nera. Per questo metto il mantello la sera, rinasce un'idea nella notte nera. Per questa volta è andata, Alfred, ma so che lo rivedremo.